Ai nostri microfoni di Radio Città Fucico abbiamo il professor Marco Antonio Bazzocchi, direttore artistico del Festival. Buongiorno professore e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Dunque, Festa del Racconto 2021, 5 giornate intessute di incontri ed eventi accolti in varie città. Ci può fare una panoramica generale di questa edizione? Sì, certo. Dunque, la Festa del Racconto, come lei ha detto, ha una tradizione abbastanza lunga perché è una festa che vive da 16 anni. Col tempo si era trasformata da Festa del Racconto dedicata a un grande scrittore di racconti del luogo, cioè Arturo Loria, si era trasformata in una specie di festa degli scrittori e della letteratura con un profilo molto simile ad altre feste o festival che ci sono in Italia. Il Comune di Carpi mi ha chiesto quest'inverno di progettare una formula che ritornasse allo spirito originario del racconto, quindi una formula che desse evidenza al racconto come una forma particolare di narrazione. E io ho pensato di recuperare da una parte le origini del racconto di tradizione emiliana, cioè quel tipo di racconto che ha il suo esponente principale in Gianni Celati, per esempio, e nella scuola di Celati, tra cui Daniele Benati, Ermanno Cavazzoni, dall'altra di invitare scrittori di racconti, quindi scrittori che magari praticano anche il romanzo, però hanno scritto raccolte di racconti, e infine di interrogarci sul perché la forma breve del racconto può essere la forma più adatta ai nostri giorni, proprio perché si ricollega a queste antichissime tradizioni della nostra letteratura che arrivano, diciamo, se vogliamo fare un nome grande, al Decameron di Boccaccio, ma si può risalire anche più indietro fino alle origini delle narrazioni dei mercanti, dei viaggiatori che attraversavano l'Europa agli albori del Medioevo. Bene, e quindi raccontare inoltre è possibilità di stare insieme sempre. Che cosa significa oggi ritrovarsi e stare insieme dopo questo lungo anno pandemico? Dunque, il racconto è proprio la forma della collettività, è proprio la forma della comunità, perché il racconto nasce nel momento in cui persone che derivano da vari luoghi, che si raccolgono magari in una corte, in una piazza, decidono di scambiarsi notizie sulle avventure che hanno avuto. Quindi, per definizione, il racconto più che il romanzo è una narrazione collettiva. Il romanzo viene fatto da soli, in casa, è borghese, diciamo così. Il racconto è pubblico, collettivo, popolare, coinvolge. Allora io ho pensato, insieme a, naturalmente al comune e agli organizzatori dell'ufficio cultura di Carpi, che stare in una piazza, ritornare in una piazza dopo più di un anno o un anno con una breve interruzione dell'estate scorsa e sentire parlare di racconti potesse essere anche curativo in un certo senso. Non a caso la prima serata è dedicata a una raccolta di racconti pubblicata da Einaudi e con la collaborazione di Medici Senza Frontiere, che si intitola Le ferite, cioè alcuni scrittori di racconti, tra cui Marcello Fois, per esempio, che parteciperà anche alla Festa del Racconto parlando di Tondelli insieme a me, hanno scritto dei racconti esplicitamente dedicati al tema della ferita e della cura, del trauma e della cura, e questo per me è importantissimo, soprattutto all'uscita dalla pandemia. Grazie mille, io la ringrazio tantissimo, un programma davvero interessante. Grazie a voi, buongiorno.